Giallo 24. In collaborazione con Giallo Mondadori. A cura di Raffaella Calandra. C'è chi li legge sotto l'ombrellone e chi li segue in TV. C'è chi si appassiona a quelli seriali e chi ogni volta cerca un brivido nuovo. Insomma, il giallo piace, ma quest'estate, se invece di metterli in valigia, li scriveste direttamente voi dei gialli, che dite? Noi diciamo di sì. E dice di sì insieme a noi anche il direttore del giallo Mondadori, Franco Forte. Tutti gli italiani leggono gialli, ma quanti saprebbero risolvere un delitto in 3 minuti? La sfida di Radio 24 e il Giallo Mondadori è questa: dare agli appassionati la possibilità di diventare loro, per una volta, gli autori di un mistero in 2 puntate. Una adatta alla radio e una che potrebbe entrare a far parte di un'antologia del Giallo Mondadori. Tutti i dettagli su radio24.it e ilgiallomondadori.it. Quali e quante possono essere le ragioni di un delitto? Quali sono le risposte che un investigatore deve trovare? Parte da qui Manuela Costantini, autrice del Giallo 24 di questa settimana dal titolo Le domande sbagliate. Luciano Bitti ha già ucciso. È di nuovo in carcere con l'accusa di aver fatto a pezzi il professor Garinelli, docente alla facoltà di legge. Mauro Seller, il suo avvocato, poi l'ha ceduto a me. Sembrava se ne volesse liberare. Bitti era sulla scena del delitto. Lavorava vicino alla casa della vittima. Insieme a lui lavorava un certo Minardi, strano personaggio che passa il suo tempo a fotografare particolari di oggetti, cercando scatti originali a tutti i costi. Cosa che gli riesce benissimo. Di sicuro le foto di pezzi di corpo sono originali. E se i pezzi sono 27, impacchettati come regali, lo sono ancora di più. Quel 27 mi gira in testa. Minardi mi fa notare che è il suo giorno di paga. Foto e soldi sono un buon movente? E chi ha ucciso una volta continua a farlo? Domande sbagliate, forse. È sulla vittima che devo concentrarmi. Sì, i soldi e le foto sono un buon movente, così come chi ha ucciso può farlo ancora. Ma chi ha fatto quello scempio non voleva solo uccidere. Garinelli era un uomo difficile e astioso. Trattava malissimo i suoi collaboratori, ma alcuni di loro avrebbero subito qualunque vessazione pur di ottenere i suoi favori. La segretaria di facoltà, che ha un debole per me, mi mostra alcuni documenti, i voti degli esami e l'istanza per l'assegnazione di una cattedra. Su questa, però, manca il timbro con la firma del rettore che ne attesti la validità. Un favore mancato? Prima dell'udienza di convalida per l'arresto di Bitti, mi resta solo una cosa da fare. Incontro Mauro, l'ex avvocato di Bitti, per un caffè. «Volevi proprio fare l'avvocato?» gli chiedo all'improvviso. «Sì», risponde convinto. «E hai mai provato un concorso all'università?» «Chi non ci ha mai provato?» «Già», confermo, mentre quel 27 vibra nel mio cervello. Mauro aveva preso tutti 30 e lode agli esami, tranne una volta. «Quanto hai preso all'esame con Garinelli?» chiedo ancora. La sua faccia si trasforma, diventa una maschera mostruosa. E anche se non risponde, so che stavolta la domanda è quella giusta. Mauro, il movente per uccidere Garinelli, ce l'aveva. Anzi, 27 moventi. E visto che si parlava di domande, quanto cambia la cronaca nella narrativa? Uno scrittore come la modifica? Questo è il gioco, dice Carlo Lucarelli, in libreria, ora con Febbre Gialla. C'è un modo di raccontare le cose effettivamente come sono avvenute, le cose di cronaca, i misteri, ma si chiama true crime, l'equivalente del documentario. Si fa con le tecniche del giallo, si romanza un po' quello che si racconta, ma tutto sommato si racconta esattamente la realtà. Noi facciamo un'altra cosa, prendiamo spunto da quello che succede. Molte volte si tratta di un semplice dettaglio di trama, a volte si tratta dell'argomento, non so, succedono brutte cose che hanno a che fare con la mafia, la criminalità organizzata, le violenze in famiglia, e hai voglia di raccontare una storia che parte da quello, diventa la tua storia e il tuo modo di vedere quel problema. La realtà viene tradita da questo punto di vista, che è un buon modo poi per esserle fedele, naturalmente, per mettere in scena i meccanismi. Questa è stata l'ultima puntata per ora di Giallo 24, di cui però torneremo presto ancora a parlare qui, anche per raccontarvi dei tantissimi altri vostri racconti che abbiamo ricevuto in questi mesi, ma che purtroppo non sono stati selezionati. Tutte le puntate di Giallo 24 sono scaricabili, ve lo ricordo, dal sito radio24.it e i racconti invece poi li ritroverete nell'antologia pubblicata nei prossimi mesi dal Giallo Mondadori. Vi informeremo poi sulle date esatte sul sito radio24.it, ma anche sulla pagina Facebook di Storiacce. Grazie ancora a tutti voi che numerosi avete partecipato. Ciao a tutti, da Raffaella Calandra.